Mezzogiorno di Simone Spezia. In piazza gli investitori coinvolti dal decreto salva banche, che hanno scritto anche al Papa. Grillo intanto attacca: la Boschi è una bugiarda, chi sbaglia non paga. La svolta dopo 32 anni nel caso del procuratore Bruno Caccia, ucciso dall''ndrangheta, arrestato il presunto killer, faceva il panettiere alla periferia di Torino. La legge di stabilità verso la fiducia oggi in Senato, molte le novità della manovra, a partire dalla cancellazione della Tasi sulla prima casa, entreremo nel dettaglio più avanti. Milano da quasi un mese oltre i livelli consentiti per lo smog, a Roma si va avanti con le targhe alterne, l'inquinamento è un'emergenza, dice il ministro dell'Ambiente. Polemiche sul rinnovo delle sanzioni alla Russia dopo che l'Italia aveva sollevato il problema in sede europea, ieri Bruxelles le ha confermate per i prossimi 6 mesi. Per la prima volta nella storia un razzo di un'azienda privata porta 11 satelliti nello spazio e poi a terra, è la SpaceX di Elon Musk. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Effetto Giorno, @radio24.it per scriverci, c'è il numero di sms, il 349-238-6666, che vale anche per WhatsApp. In apertura dunque andiamo a parlare della manifestazione degli investitori coinvolti dal decreto con il quale il governo ha salvato Banca Etruria, Carichieti, Banca Marche e Cariferrara. Investitori che hanno perso una parte del loro patrimonio tutto con l'azzeramento, lo ricordiamo, delle azioni e delle obbligazioni subordinate. Sta seguendo la protesta che è davanti alla sede della Banca d'Italia Giorgio Stamatopoulos. Giorgio, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, come hai giustamente ricordato, un decreto che ha salvato le banche, ma una delle principali contestazioni che si sono levate dalla manifestazione non ha salvato i risparmiatori, motivo per cui oggi sono arrivati circa in 200, soprattutto dalla Toscana, un viaggio organizzato dal comitato che si è costituito nelle scorse settimane, delle vittime del cosiddetto salva banche. Dicevamo tante persone, anche alcuni anziani sono venuti qui col pullman, tanti di questi piccoli risparmiatori raggirati appunto da informazioni errate, fraudolente, che si sentono truffati e vorrebbero indietro tutti i loro risparmi. Io sono qui in compagnia di Liliana, arrivata da Arezzo, la sua una storia analoga a tante altre che abbiamo sentito in questi giorni. Le chiediamo solamente qual è la cosa che l'ha fatta arrabbiare e indignare di più anche rispetto agli sviluppi che ci sono stati negli ultimi giorni, l'intervento del governo, l'ipotesi che Cantone risolva tutta questa faccenda. Allora, per me, diciamo, sono stata veramente delusa da questo fondo interbancario che risuona veramente un po' come una presa di giro, perché crea delle discrepanze all'interno anche tra i risparmiatori. Cioè, un fondo che non è sufficiente a coprire tutti i risparmiatori che sono stati depredati e espropriati da questi risparmi. E quindi questa è una cosa fondamentale, insomma. E oltretutto nessuno, anche qui alla manifestazione a Roma, nessuno si è confrontato anche con noi, perché voglio dire, noi siamo pacifici, civili, siamo venuti qui in maniera con il buon senso e nessuno è venuto a comunque dialogare con noi o comunque trovare un compromesso, qualcosa. Senta Liliana, Liliana ci sente? Nei confronti nostri che paghiamo le tasse, siamo cittadini onesti. Non ci sente allora, evidentemente. Giorgio, volevamo fare una domanda alla Liliana, se ce la puoi passare, grazie. Sì, guarda, te la passo, fagli la domanda. Sì. Mi scusi, quanto ha perso lei e come ce l'aveva investito il denaro? In obbligazioni subordinate? In obbligazioni subordinate, comunque una discreta cifra. E non quindi, si sente di dire quant'è. Sì, però diciamo una discreta cifra e ci rimango male perché sono stati espropriati così la domenica a lunedì. Chiarissima qual è la sua posizione, grazie anche a Giorgio Stamato. Se la vicenda prosegue anche nella sua coda giudiziaria, sentiamo. Tutti auspicano la piena collaborazione tra Banca Italia, Consob e autorità anticorruzione, a cui è affidato il compito di valutare caso per caso se i risparmiatori con i bond subordinati siano stati truffati. Ma se nelle indagini dell'ANAC dovesse emergere che chi doveva controllare non l'ha fatto, allora è giusto che chi ha sbagliato paghi, risponde il presidente della Consob, che avverte basta ricostruzioni non veritiere come sull'Etruria. Vegas spiega che dopo la lettera di Visco di dicembre 2013 sulla situazione ormai deteriorata del della banca, la Commissione ha chiesto di integrare il prospetto di aprile sull'offerta dei bond terminata a ottobre. Della lettera però nessuna traccia. In più, dalle carte arrivate sulla scrivania del PM di Arezzo, Rossi, è emerso che Palazzo Coca aveva chiesto il ricambio degli organi, che non c'è stato. Poi, 9 mesi dopo, è arrivato il commissariamento. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sempre alla nostra Livia Zancanera abbiamo chiesto un approfondimento proprio sul ruolo della vigilanza, tanto la Banca d'Italia quanto la Consob. Lo sentiremo più avanti nel corso della trasmissione. Intanto resta aperto il fronte politico. Sentiamo. Episodi gravi, così il Presidente della Repubblica Mattarella ha definito ieri la vicenda delle 4 banche salvate dal fallimento. Il risparmio va tutelato, è il richiamo arrivato dal Capo dello Stato, che ha invitato ad accertare tutte le colpe. Governo e maggioranza in queste ore stanno ragionando sui poteri da affidare alla Commissione parlamentare di inchiesta, che dovrà fare chiarezza sul caso, evitando però conflitti istituzionali con Banca Italia e Consob. Nel frattempo le opposizioni si preparano invece al voto sulla mozione di sfiducia contro il governo fissato per il 19 gennaio alla Camera. A tornare sul caso delle banche oggi è anche Beppe Grillo. Con il decreto varato per recepire la direttiva europea sul bail-in, il governo ha salvato il padre del ministro Boschi, attacca dal suo blog il leader del Movimento 5 Stelle. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla legge di stabilità, che oggi dovrebbe arrivare all'approvazione definitiva, con dentro tra l'altro anche i soldi per risarcire parzialmente gli investitori che appunto hanno comprato azioni o obbligazioni subordinate delle 4 banche salvate dal governo. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Il governo punta a chiudere, Simone, la partita della manovra al Senato entro questa sera, utilizzando anche il voto di fiducia qualora ve ne fosse bisogno. Il testo viene spiegato da Palazzo Chigi e di fatto blindato nella versione uscita dalla Camera. Anche gli 800 emendamenti presentati in Commissione Bilancio a Palazzo Madama sono stati respinti. È in corso in questo momento la discussione generale. Nel pomeriggio si passerà quindi alle dichiarazioni di voto. Governo e maggioranza difendono intanto i contenuti del provvedimento. Un'inversione a U, la definisce il Premier Matteo Renzi. Altro che marchette, replica alle opposizioni. Le misure volute rappresentano un disegno organico e per la prima volta le tasse scendono e gli investimenti salgono. La legge di stabilità, commentano invece da Forza Italia, già in partenza lacunosa e deludente, è tornata al vaglio del Senato ancora più gonfiata nelle mancette elettorali, dilatata nel deficit a carico delle future generazioni e inattendibile nelle coperture. Quanto ai contenuti, ricordiamo brevemente che la manovra è salita nel suo impatto economico a 35,4 miliardi a fronte di un indebitamento che arriva al 2,4% del PIL. E per il momento è tutto, linea allo studio. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta, che torneremo a sentire più avanti, perché fin qui abbiamo fatto il punto politico e di cifre economiche generali della manovra, ma ovviamente ci sono molte misure e, dato che sta arrivando all'approvazione definitiva, le andremo ad approfondire più avanti proprio con Vincenzo Miglietta. Veniamo alla cronaca. La svolta dopo 32 anni nelle indagini sull'omicidio del procuratore di Torino Caccia. Il servizio e poi l'analisi di Daniele Biacchessi. Il blitz delle forze dell'ordine è scattato questa notte. Rocco Schirripa, 64enne di origini calabresi, è stato arrestato a Torino, dove lavorava in una panetteria, con l'accusa di essere il killer del magistrato Bruno Caccia, ucciso la sera del 26 giugno 1983 con 14 colpi di pistola. Una svolta decisiva in un caso aperto 32 anni fa, che aveva già portato all'arresto del mandante dell'omicidio, Domenico Belfiore, numero uno delle cosche nel nord-ovest negli anni 90, che avrebbe deciso l'eliminazione del procuratore per le sue indagini sul riciclaggio di denaro delle organizzazioni criminali. Secondo gli inquirenti, Schirripa era alla guida dell'auto che avvicinò Bruno Caccia nei pressi della sua abitazione e avrebbe poi freddato il magistrato con un colpo alla testa. L'arrestato è Belfiore, condannato all'ergastolo, uscito di prigione pochi mesi fa per motivi di salute, sarebbero collegati anche da legami familiari. A guidare le operazioni della polizia, tuttora in corso tra Piemonte e Lombardia, sono i PM lombardi Ilda Boccassini e Marcello Tatangelo. Dopo un anno dalla riapertura delle indagini sull'omicidio di Caccia, l'arresto di oggi potrebbe quindi risolvere uno dei casi più eclatanti degli anni Ottanta, è rimasto finora parzialmente irrisolto. Miriam Corgia, 324, Sole 24 Ore, Torino. Girava senza scorta con il suo cane. Diceva che se avessero voluto sparargli lo avrebbero fatto comunque. Non era forse meglio vivere una vita normale, senza coinvolgere anche gli uomini di un'eventuale protezione? Il sogno di libertà di Bruno Caccia, procuratore capo di Torino, si è infranto la sera del 26 giugno 1983, alle 23:15, sotto la sua abitazione di via Somma Campagna a Torino. 14 colpi di pistola hanno fermato il suo lavoro di segugio contro il terrorismo, la corruzione, le mafie. I sicari lo avevano seguito da mesi nei suoi spostamenti a Torino e in altre parti d'Italia. Lo hanno ucciso nell'ultima ora di una domenica d'estate di elezioni. Il mandante dell'omicidio è certamente il boss dell'andrangheta Domenico Belfiore. Così hanno stabilito i tribunali, che però non sono mai riusciti ad identificare il sicario. Ci sono voluti 32 anni e oggi quel killer ha un nome e un volto: Rocco Schirripa, di professione panettiere, trasferito negli anni a Milano. Già 32 anni in cui il fascicolo sulla morte di Caccia dormiva tranquillo nei cassetti della procura di Milano. Nel frattempo l'Italia è cambiata, ma l'andrangheta resta oggi, come allora, l'organizzazione criminale più potente. Così dunque il nostro Daniele Biacchessi, e noi restiamo sulla cronaca ma per parlare di quello che sta succedendo nell'aria delle nostre città. Da giorni, in assenza di pioggia, alcune zone d'Italia, la pianura padana in particolare, sono afflitte da una persistente situazione di inquinamento oltre i limiti consentiti dalla legge. Facciamo il punto. Milano è la città con l'aria peggiore. Da quasi un mese ha i valori delle polveri sottili ben oltre il limite, valori che nell'ultimo periodo hanno sfiorato anche il doppio o il triplo di quelli consentiti dalla legge e soprattutto tollerati dal nostro organismo. Una situazione gravissima, considerando anche il fatto che non è prevista pioggia né vento nei giorni a venire. È la più grave emergenza inquinamento degli ultimi 4 anni. Difficile la situazione anche a Brescia, Monza, Bologna, che oltrepassano il limite fissato a livello europeo di una concentrazione media annua di 25 microgrammi per metro cubo d'aria. La soglia stabilita dall'OMS è 10 microgrammi per metro cubo. Sforano i livelli di PM10 anche Torino, Napoli, Roma. Il superamento del tetto giornaliero di polveri sottili è registrato in 30 città. Ed è di pochi giorni fa lo sconvolgente rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, che indicava proprio nell'Italia il paese dell'Unione Europea con il numero di morti premature rispetto alla normale aspettativa di vita a causa dell'inquinamento. Per Legambiente il problema non viene affrontato con la giusta serietà. Tra gli obiettivi ci dovrebbe ad esempio essere una drastica riduzione, se non la messa al bando, dei combustibili più inquinanti, soprattutto per quanto riguarda il riscaldamento domestico. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo a parlare del nostro paese e della sua politica estera, iniziando da una notizia di ieri. Tra poco andremo a commentarla, che ha suscitato molte polemiche, soprattutto del centrodestra nei confronti del governo, e riguarda il via libera formale arrivato dal Consiglio europeo al prolungamento di 6 mesi delle sanzioni alla Russia, che andranno dunque avanti sino al 31 luglio del 2016. Come ricorderete, ve lo avevamo raccontato anche in effetto giorno, appunto, l'Italia aveva provato ad aprire una sorta di discussione politica proprio su questo tema, aveva provato almeno momentaneamente a bloccare le sanzioni. Evidentemente questa cosa non è riuscita. Più avanti analizzeremo la cosa, cercheremo di capire che cosa c'è dietro e come sono andate le cose. Nel frattempo parliamo di lotta al terrorismo e di mosse sempre di politica estera italiana. Oggi visita di Renzi a Beirut, dove sono di stanza i nostri soldati per la missione dell'ONU di peacekeeping chiamata UNIFIL. E dirvi che qualsiasi sia il futuro che ci aspetta, complicato, difficile, arzigogolato, come dice qualcuno, noi siamo l'Italia, un paese che è orgoglioso della propria cultura, dei propri musei, ma che è anche orgoglioso dei propri soldati. Jeans e giacca mimetica, Matteo Renzi in Libano in visita istituzionale. Parla così al contingente italiano impegnato nella missione UNIFIL nella base di Shama. Con lui il generale Claudio Graziano, capo di Stato Maggiore della Difesa, e l'ambasciatore italiano in Libano Massimo Marotti. Ringrazia il premier e i soldati per la loro abnegazione. C'è una specificità del nostro Made in Italy, si sente di dire Renzi, anche nel modo di fare peacekeeping. Quanto al terrorismo, il premier ribadisce che occorre rispondere lavorando costantemente per non farci sconfiggere dalla paura, anche, sottolinea, venendo qui. Su un altro fronte, quello iracheno, visita istituzionale oggi da parte del presidente del Senato Piero Grasso. A Baghdad ha già incontrato il presidente del Parlamento Salim al-Jaburi, ma vedrà anche quello della Repubblica Fuad Masum e il patriarca Luis Sacco. Nel pomeriggio il presidente del Senato sarà a Camp Dublin, la base dove i nostri carabinieri addestrano la polizia irachena. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla grande incertezza che domina il dopo elezioni spagnole. Ci colleghiamo con Luca Veronese del Sole 24 Ore. Luca, buongiorno, che è stato inviato là fino a ieri. Luca, eccoci. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, quali sono le ultime? vittime sono che l'incertezza è sempre più grande e durerà così per alcune settimane. Oggi addirittura è stato annullato un incontro importante che è stato fissato fra le grandi banche, i grandi gruppi che si riuniscono in questo che si chiama Consiglio della Competitività. È stato annullato perché nessuno vuole esprimersi fra le grandi banche, i grandi gruppi industriali su cosa potrebbe succedere. E Rajoy, il primo ministro uscente, insiste nel voler formare un governo, ha l'appoggio esterno di Ciudadanos, questo movimento di centro, e vuole cercare l'appoggio anche di socialisti, che però due giorni prima del voto avevano definito la candidatura di Rajoy come candidatura indecente addirittura. Quindi è molto complicata la situazione. All'orizzonte potrebbe svilupparsi o crearsi una coalizione di sinistra, ma anche quella è tutta da esplorare. Per la Spagna è una situazione mai vista e tutte le regole sono nuove. Brevemente, Luca, è probabile a questo punto che si torni al voto in primavera? La cosa più probabile, secondo gli analisti politici spagnoli, è che si formi una coalizione, davvero dopo il fallimento di Rajoy in prima battuta, una coalizione di sinistra appoggiata dagli estremi, dai nazionalisti baschi e catalani, per fare un governo di scopo che duri qualche mese, forse un anno, rifare la legge elettorale, rivedere la Costituzione per dare maggiore indipendenza e autonomia alle regioni e poi si dovrebbe tornare al voto. Quindi massimo un anno, questa è la previsione. Grazie a Luca Veronese del Sole 24 Ore per questo aggiornamento. Noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Poi abbiamo molti altri argomenti per la seconda parte della trasmissione. Torneremo a parlare di banche e soprattutto del ruolo della vigilanza. Ci occuperemo di questa vicenda di una donna che ha deciso di andare a morire in Svizzera perché aveva un tumore incurabile, accompagnata da Marco Cappato dei Radicali, il quale adesso rischia 15 anni di carcere per questa operazione. Ci occuperemo anche delle sanzioni alla Russia, tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, partendo da una appena battuta dalle agenzie. L'ISIS ha ucciso 9 studentesse siriane nel bombardamento di una scuola della città di Deir ez-Zor, lo riporta l'agenzia di Stato Sanà, citata da Rutz Sheva. Il bombardamento è avvenuto su una scuola e ci sono anche 20 feriti. Sono in piazza gli investitori coinvolti dal decreto salva banche, che hanno scritto anche al Papa. Svolta dopo 32 anni nel caso del procuratore Bruno Caccia, ucciso dall''ndrangheta, la figlia dice bisogna far luce su tutti i mandanti. La legge di stabilità verso la fiducia oggi in Senato. Milano da quasi un mese oltre i livelli consentiti per lo smog, a Roma si va avanti con le targhe alterne. E torniamo in apertura di questa seconda parte a parlare di banche. In apertura della trasmissione ci siamo collegati con gli investitori che stanno protestando, che hanno perso parte o tutto il loro patrimonio, stanno protestando davanti alla sede della Banca d'Italia, e qua abbiamo chiesto alla nostra Livia Zanchener di fare un punto un po' su quello che è emerso dal lato della vigilanza, di chi ha vigilato e forse non ha vigilato abbastanza. Banca Italia solitamente tiene per sé l'esito delle ispezioni, così spetta alla Consob chiedere le informazioni necessarie a Palazzo Koch. Questa è la prassi, ci spiega chi nel settore ha lavorato per anni. Nel caso dell'Etruria, spiegano gli stessi Visco e Vegas, a fine 2013 la lettera di Banca Italia sulla situazione deteriorata della banca è arrivata sia ai vertici, con l'obbligo di non divulgare, sia alla commissione. Consob non l'ha pubblicata, ma ha chiesto un supplemento al prospetto per dare due giorni di tempo ai risparmiatori per revocare l'acquisto di un'emissione chiusa a ottobre, era il 20 dicembre, ma i prospetti, si lamentano tutti, sono troppo lunghi e incomprensibili. Nel caso di liquidazione o fallimento, chi detiene bond subordinati sarà rimborsato dopo gli altri creditori, si legge nei documenti delle emissioni. Nel caso delle quattro banche salvate dal governo non c'è stata liquidazione, ma azioni e obbligazioni sono state azzerate, come prevede la nuova direttiva europea. Attenzione quindi ai prospetti più datati, ci spiega l'avvocato Gioacchino Foti di Clifford Chance, che si occupa di regolamentazione bancaria. Tendenzialmente direi che tutti i prospetti dovrebbero già avere una descrizione abbastanza accurata di quelli che erano i rischi in capo ai portatori dei titoli subordinati. È anche possibile però che alcune di queste emissioni siano molto risalenti nel tempo, quando ancora la direttiva non era né stata approvata né ancora si discuteva di questa direttiva, e quindi è possibile che per alcuni prospetti questo tipo di disclosure non ci sia stato. La direttiva ha previsto questi meccanismi di risoluzione Commissione e ha previsto questa possibilità di far subire delle perdite agli azionisti e ai portatori di titoli subordinati anche, diciamo, con effetti retroattivi, quindi anche rispetto ai titoli che erano già stati emessi. Un'idea per rendere più comprensibili i prospetti arriva dalle associazioni dei consumatori di Veneto Banca, un semaforo rosso, giallo e verde per avvertire i clienti dei rischi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo il quadro dalle banche. Noi adesso cambiamo decisamente argomento. Saluto Marco Cappato dei Radicali, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, partiamo sentendo una voce. È già tutto prenotato, abbiamo già prenotato il treno, l'albergo, non ci dovrebbero essere difficoltà. Nel senso, l'unica cosa è mantenere, avere la forza di questi ultimi tre giorni, perché ci sono dei squilibri, dei dolori così che vanno. Una volta messi a posto al mattino, poi vado avanti durante il giorno. La voce che avete sentito è della signora Dominique Velati, infermiera di Borgomanero, e siamo in provincia di Novara, che è affetta da un tumore incurabile. Qua, intervistata da Giulia Innocenzi per Servizio Pubblico, ha deciso di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera, a Berna, dove l'eutanasia è legale. E lei, Marco Cappato, è andato con la signora? No, io ho pagato il biglietto del treno e qui in realtà per tre mesi comunque aiutato e assistito Dominique nella procedura. Nella procedura. E per questo lei adesso rischia addirittura 15 anni di carcere? Ma io sono andato a autodenunciarmi alla stazione dei carabinieri per questo aiuto che ho dato. In Italia esiste un articolo del codice penale che prevede che l'aiuto al suicidio possa essere punito da 5 a 12 anni di carcere, poi ci sono altre fattispecie possibili. Naturalmente mi sono autodenunciato perché chiedo un giudizio dove sostenere che applicare un reato del genere per chi aiuta un malato terminale a interrompere le proprie sofferenze è incostituzionale oltre che assurdo, e quindi spero di poterlo dimostrare in un'aula di giustizia. Cioè spera di andare a processo sostanzialmente, sì, lei su oppure, questa cosa. Oppure se non si andrà a processo vorrà dire che intanto tutte le persone che stanno aiutando degli altri a fare la stessa cosa, non potranno più essere incriminati, già questo potrebbe essere un risultato. E poi comunque, visto che l'obiettivo non è certo quello di mandare la gente in Svizzera, ma diventerà ancora più chiara la contraddizione dello Stato italiano nel consentire che si vada in Svizzera e del non consentire delle buone regole da noi. Tra l'altro abbiamo depositato una proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione delle eutanasia oltre due anni fa, il Parlamento, contro la Costituzione, non ne ha mai discusso nemmeno un minuto. Questo è il contesto perché ci ha indotto, insieme a Dominique, perché l'abbiamo voluto e deciso insieme, a rendere pubblica questa iniziativa e cercare quindi di ottenere quel dibattito che altrimenti in Parlamento e fuori non si riesce a ottenere. Senta Cappato, mi sembra di aver capito che voi siete dichiarati disponibili ad aiutare persone come Dominique in qualunque modo. Assolutamente. Assolutamente, e stanno già arrivando altre richieste e lo facciamo alla luce del sole, cioè questa è una cosa che già succede da moltissimi anni, si fa ma non si dice come accade in Italia. A questo punto si fa, si dice, perché bisogna conquistare buone regole per tutti, perché qual è il problema? Che chi ha i soldi lo può fare. Dominica ha speso 12.000 euro, chi per esempio è un malato intrasportabile e magari ha dei parenti e degli amici che non la pensano come lui, magari è inchiodato a una sofferenza che quella persona non vuole. Non stiamo qui, secondo me, a discutere se è giusto o sbagliato. Ognuno di noi può reagire in modo diverso. Io non so neanche se lo vorrei, che cosa vorrei fare. È inutile dirlo, bisogna trovarsi in queste condizioni. Il problema è che bisogna essere liberi di scegliere, come lo siamo, dobbiamo esserlo nella vita, dall'inizio alla fine della nostra vita. Un'ultima domanda di pura cronaca: sa se è già indagato Cappato? So che oggi è stato trasmesso la comunicazione, il verbale, alla procura. Grazie a Marco Cappato, i Radicali Italiani, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. Le auguro buona giornata. Saluto Federico Niglia, che è storico delle relazioni internazionali, a Luis Guido Carli di Roma. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Per parlare innanzitutto della decisione arrivata ieri dal Consiglio europeo, quasi un atto automatico, perché era automatico appunto il rinnovo delle sanzioni alla Russia per altri 6 mesi, e però c'è il tema è stato sollevato dall'Italia, questo lo sappiamo, non sappiamo con quanta convinzione formale, sicuramente con una certa convinzione mediatica, per così dire, insomma, la volontà di sospendere queste sanzioni alla Russia. Le chiedo che scopo ha avuto questa sortita dell'Italia, secondo lei, visto che poi la conclusione è stata quella che è stata? Io darei una duplice spiegazione. C'è una motivazione oggettiva legata alla questione, cioè l'Italia non è pienamente convinta che con la Russia bisogna adottare la mano pesante. La seconda è di ordine contingente, cioè l'Italia ha voluto mettere una serie, diciamo, di puntini su dei dossier molto delicati, e lo sta facendo per riguadagnare dei margini di autonomia su uno scacchiere europeo che sembrava abbastanza restio ad ascoltare l'Italia. Credo che siano queste le due motivazioni che abbiano spinto il governo. E appunto anche magari far sapere a Mosca, insomma, vi appoggiamo. Io non sarei più cauto nell'affermarlo, nel senso che non si tratta di appoggiare o meno, si tratta di gestire al meglio una situazione che si è bloccata, anche perché se è vero che da un lato le sanzioni hanno sortito i loro effetti, è anche vero che il dinamizzarsi della scena internazionale pone dei problemi che possono essere risolti di fatto solo con il contributo russo, il che ha portato l'Italia a essere, diciamo, il pioniere di un progetto di revisione. Ci vede una in questo, così come in alcuni elementi di attivismo in quelle aree, di attività in quelle aree che sono coinvolte da una serie di crisi, una nuova linea di politica estera italiana, o è qualcosa che siamo abituati a vedere? Allora, la politica estera si fa con mezzi estremamente concreti, che sono la politica innanzitutto, ma poi anche la dimensione militare, la dimensione economica, la dimensione culturale. Sono tutti fattori che si modificano con una certa lentezza. Non sono dell'idea che sia una mera azione propagandistica. Detto questo, credo che sia più che altro la volontà di riaffermare non tanto un'indipendenza quanto un'indipendenza di ragionamento dell'Italia in un contesto che sta mutando in modo molto rapido, e dunque dire l'Italia c'è, ha la sua linea di pensiero, di condotta. Bisogna però vedere quanto questa linea di pensiero e di condotta sia capace di trasformarsi in coalizione, e questa è la vera sfida che si porrà all'Italia nei prossimi mesi e anni. La ringrazio, grazie a Federico Niglia, storico delle relazioni internazionali, alla Luis Guido Carli di Roma. Adesso noi ci fermiamo nella seconda parte della trasmissione, anzi nella terza parte per essere più precisi, dopo aver parlato di mercati come sempre, ci occuperemo della legge di stabilità e faremo un punto su qualche singolo capitolo di questa legge di stabilità, parleremo con il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti e parleremo di inquinamento, e poi quella cosa che avete sentito nei titoli, un fatto abbastanza importante nella storia, chiamiamolo così, dell'esplorazione spaziale o di quello che faremo nello spazio nei prossimi anni, perché un razzo lanciato da un'impresa privata, quella di Elon Musk, il fondatore della Tesla, ha portato 11 satelliti nello spazio e poi è riatterrato, quindi un evento piuttosto importante. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. La svolta dopo 32 anni nel caso del procuratore Bruno Caccia, ucciso dall''Ndrangheta, è stato arrestato il presunto killer. La figlia dice che bisogna far luce su tutti i mandanti. Sono in piazza gli investitori coinvolti dal decreto salva banche, che hanno anche scritto al Papa, sono in sit-in davanti alla sede della Banca d'Italia. La legge di stabilità verso la fiducia oggi in Senato, molte le novità della manovra a partire dalla cancellazione della Tasi sulla prima casa. Milano da quasi un mese oltre i livelli consentiti per lo smog e così anche molte città della pianura padana. Roma si va avanti con le targhe alterne. e polemiche, come avete sentito, sul rinnovo delle sanzioni alla Russia dopo che l'Italia aveva sollevato il problema alla borsa. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, e adesso andiamo ad occuparci di smog, un problema che affligge soprattutto la pianura padana, ma molte città d'Italia in questa fase nella quale, insomma, lo avete visto anche da voi, non piove e non si muove foglia, e quindi molto semplicemente lo smog, l'inquinamento e le polveri sottili permangono nell'aria. Gianluca Galletti, Ministro dell'Ambiente, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Situazione emergenziale, ha detto lei, no? Sì, è una situazione emergenziale. Come ricordava lei, siamo di fronte all'anno più caldo della storia italiano, del pianeta, fra l'altro. E siamo di fronte a un periodo di siccità, anche questo fra i più lunghi della storia d'Italia. Quindi queste due cose insieme rendono la situazione molto difficile, là soprattutto dove la situazione è normalmente difficile, come ad esempio nella pianura padana. Chiaramente, abbiamo visto molti provvedimenti presi da singoli comuni, magari dalle regioni, con grandi variazioni, cioè dalle targhe alterne di Roma al biglietto per i mezzi pubblici che a Milano vale per tutto il giorno. Sono effettivamente, Galletti, piccoli tamponi, ci sembra di capire. Questo è come prendere l'aspirina quando hai la febbre, ti può buttare giù la temperatura per un po', ma non risolve il problema alla radice. Per risolvere il problema alla radice ci vogliono provvedimenti ben più impattanti, penso all'utilizzo delle auto elettriche o delle biocarburante, penso a tutto lo sforzo che stiamo facendo sull'efficientamento energetico, penso al rispetto dei limiti da parte delle aziende che emettono inquinanti. Ecco, queste sono cose che servono, che stiamo facendo, sì, ma che daranno i risultati, ahimè, nel medio periodo. Ecco, di solito per fare questo, Ministro, di solito per fare questo ci vogliono, la dico molto brutalmente, ci vogliono quattrini, nel senso che ci vogliono incentivi per smuovere investimenti di questo tipo, che spesso costano e che non sembrano, almeno all'apparenza, dare un risultato immediato, anche se poi ce l'abbiamo in termini di risparmio energetico, ma spesso nemmeno i condomini se ne rendono conto, tanto per dire. C'è un chip su tutto questo? No, abbiamo perso il ministro Galletti. Mentre proviamo a recuperarlo, vediamo se siamo in grado di collegarci con il nostro Vincenzo Miglietta da Roma. Vincenzo, buongiorno, eccoci qua. Per fare un punto sulla manovra che oggi arriva all'approvazione, sappiamo che Galletti è in giro per le strade della Sicilia, quindi non sempre prende benissimo. Allora Vincenzo, iniziamo con i contenuti. Abbiamo prima fatto un quadro politico generale, però ti chiederei di scendere nel dettaglio sui contenuti. Magari partiamo dalle cose che riguardano più strettamente tutti quanti, ossia le tasse, la TASI, il canone RAI e via dicendo. Assolutamente sì, parto da una serie di micromisure: 80 euro alle forze dell'ordine, card da 500 euro per la cultura dei diciottenni, canone RAI in bolletta in 10 rate, assunzione dei medici, il fondo Simone di solidarietà per i risparmiatori danneggiati, no tax area estesa a 8.000 euro, tetto all'uso del contante a 3.000 euro, invece 1.000 euro per i money transfer. Ma giustamente lo anticipavi, l'intervento fiscale più importante della manovra, perché vale 4,5 miliardi di minori entrate, riguarda l'esenzione della TASI sull'abitazione principale e dell'IMU sui terreni agricoli e gli impianti imbullonati. Ed ancora, la premessa è d'obbligo, la manovra è cresciuta a 35,4 miliardi con un deficit al 2,4%, questo è importante dirlo, due decimali di punto in più per finanziare maggiore spesa in sicurezza, cultura e periferie, utilizzando subito lo spazio fiscale chiesto per l'emergenza immigrati. uno spazio soggetto a verifica europea in primavera che servirà, non servirà più per l'anticipo nel 2016 del taglio dell'IRES, e questo è importante, dal 27,5 al 24,5%. Questo intervento, l'IRES, lo ricordiamo, di riduzione della pressione fiscale sulle imprese, è rimandato invece al 2017. Allora, grazie Vincenzo per questo punto sugli snodi della manovra, e abbiamo recuperato il ministro Gianluca Galletti, e visto che parliamo esattamente di soldi di bilancio dello Stato, gli stiamo chiedendo, ci sono incentivi forti per tutto questo e per risolvere strutturalmente il problema dell'inquinamento? Ministro, eccoci. Sì, stavo dicendo che ci sono stati delle manovre che hanno funzionato, e come? Penso ad esempio allo sconto fiscale che abbiamo dato per l'efficientamento energetico, il 65%, quello ha dato molti buoni risultati che servono al fine anche delle polveri, perché parte delle polveri viene proprio dal riscaldamento. Se io faccio efficientamento energetico ho la possibilità di tenere il riscaldamento più basso, ma le faccio altri esempi. Mi scusi ministro, le chiedo proprio a proposito di questo, molti ascoltatori ci stanno scrivendo, e lo sappiamo anche noi perché negli uffici ci viviamo e ci lavoriamo, oltre che vivere evidentemente nelle nostre case, che spesso i limiti di temperatura non vengono rispettati. C'è un modo per rendere coercitivi questi limiti di temperatura? Sì, nei condomini? Probabilmente sì, però posso dire una cosa, su un problema di questo genere a me fa un po' tristezza utilizzare metodi coercitivi, poi capisco che bisogna farlo, capisco bene, perché se no la gente, però visto che è un problema di salute di tutti, anche dei nostri figli, dei nostri amici, dei nostri genitori, basterebbe, non dico per risolvere il problema, ma per alleviare un po' il problema, delle piccole cose. Cioè, posso chiedere ad esempio di non utilizzare i caminetti, almeno perché ha un altro tipo di riscaldamento in questo periodo. Utilizzare un caminetto vuole dire l'inquinamento che producono 10-15 auto. È un grande sacrificio. Abbassare un po' il riscaldamento è un grande sacrificio. O adesso che molti, beati loro, vanno in vacanza, spegnere il riscaldamento è un grande sacrificio. Chiarissimo. Pronto? Chiarissimo. No, ecco. ci siamo, ministro. Poi metteremo anche manovre coercitive, faremo i controlli, però cavolo, scusi la parola, ogni tanto su un problema di questo genere avere la responsabilità, no, di agire tutti insieme, a me quando parla di qualcosa di coercitivo, cosa intende? Cosa puntereste eventualmente? Ma guardi, adesso ci vedremo, anche se poi non è semplice andare a casa di ognuno a vedere, no, a che livello c'è il riscaldamento. Sono quelle cose che servono più a far paura che altro, penso. Sì. Ma poi, ripeto, io il fatto no, di non le piace, questo l'abbiamo capito. Sul fronte dei finanziamenti, brevemente, ministro. Dicevo, abbiamo approvato non più di mezz'ora fa alla Camera, ad esempio, faccio un altro esempio, il collegato ambientale, lì ci sono 35 milioni per la mobilità elettrica, e questo è un altro contributo. Proprio ieri ho annunciato un fondo del mio ministero di 5 milioni, che però sono pronto anche a rifinanziare, per dare ai comuni la possibilità del famoso, lo citava anche lei, autobus gratuiti o scontati. Intervengo anch'io come ministero, anche se non è una mia competenza, questa è una competenza in capo ai comuni e alle regioni, ma voglio dare la massima collaborazione anche qui, però i soldi è giusto metterli, le incentivazioni, poi però bisogna utilizzarli e utilizzarli bene, perché io noto che spesso si dice che non ci sono i soldi perché non si riescono, non si è capaci di fare le cose. Il problema non è sempre economico. Ultima domanda che le voglio fare, off topic, come si dice, fuori dal tema principale, perché ho visto che stamattina lei ha parlato ancora del ponte sullo stretto, ministro, ha detto che il ponte è in agenda ma ci sono altre priorità, quindi è in agenda. Guardi, io se lei mi chiede a me le mie priorità adesso come ministro dell'ambiente, oltre allo smog c'ho il dissesto idrogeologico, c'ho le bonifiche da fare in giro per tutta Italia perché ambientalmente non sono corrette, perché andiamo in infrazione UE, c'ho le depurazioni da fare, quindi per me le priorità sono quelle. Sono quelle là, non il mio ministero. Non il ponte sullo stretto. Grazie. Ne ho di priorità tutti i giorni. Grazie, grazie e buon Natale a tutti, grazie, auguri. Grazie ministro, buon Natale anche a lei. E per chiudere andiamo a parlare dello spazio. Non è la prima volta, ma il risultato è storico ed eccezionale per il settore spaziale. SpaceX è riuscito in un'impresa che tentava da mesi con qualche fallimento, fare atterrare in verticale un razzo appena partito da una rampa di lancio. Questa notte SpaceX, la società creata da Elon Musk, già fondatore di PayPal e della casa automobilistica Tesla, ha lanciato da Cape Canaveral un razzo Falcon 9 che ha portato in orbita 11 piccoli satelliti. Dopo pochi minuti, il primo stadio, il più potente e costoso, si è sganciato e ha cominciato una lenta discesa verso terra fino ad un morbido atterraggio verticale aiutato da alcuni retrorazzi. Lo scorso mese un'impresa simile era riuscita alla Blue Origin, la società finanziata da Jeff Bezos di Amazon, che aveva fatto atterrare in verticale il piccolo razzo New Shepard. Il risultato di entrambe le società è un passo fondamentale per abbassare il costo dei voli spaziali e allargare così il business anche al turismo spaziale, riutilizzando parte dei razzi che finora vengono dispersi in atmosfera o cadono nell'oceano con elevati costi di recupero. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.